Venti e rumori di guerra, come purtroppo è evidente a tutti, anche i bambini che incominciano a essere preoccupati, a pensare che forse la guerra può arrivare davvero, sono sempre più forti. Si alza il tiro, la notte dei droni e dei missili che hanno solcato i cieli del Medio Oriente, che sono arrivati su Israele, è solo l'ultimo anello di una catena ormai lunghissima, per cui è necessario che anche il pacifismo alzi il tiro. Poiché nelle cancellerie di tutti i paesi europei ormai si sta pensando a rafforzare la difesa militare, a aumentare le spese militari, fino anche a ipotizzare il ripristino e il ritorno della leva obbligatoria, cioè di una mobilitazione militare generale, ebbene che noi facciamo sapere fin da subito, da oggi, la nostra indisponibilità a partecipare a questa mobilitazione militare, a prendere l'uso delle armi, per cui abbiamo lanciato questa campagna, cioè una vera e propria dichiarazione come atto formale da inviare al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, cioè a tutte le autorità competenti, in cui dichiariamo nome, cognome, indirizzo, firma, data di nascita e invio, che siamo obiettori di coscienza e come obiettori di coscienza vogliamo essere iscritti in un albo di tutti coloro che non vogliono essere coinvolti e chiamati. E poiché l'obiezione di coscienza è uno dei principi cardine riconosciuti dalla Carta dei diritti umani ed entrata nei principi fondativi dell'Unione Europea, noi pretendiamo che il nostro nome venga inserito appunto in questi elenchi di obiettori di coscienza, cioè di persone che non possono essere chiamate a svolgere servizi armati. Questa dichiarazione noi la rivolgiamo a tutti, giovani e adulti, uomini e donne, perché la mobilitazione generale riguarderebbe eventualmente tutti. Come aderire? È abbastanza semplice, sul sito azionenonviolenta.it, che è il sito del Movimento Non Violento, facilmente recuperabile in internet, c'è proprio il format che si può compilare direttamente online o scaricare in cartaceo, stamparselo e inviare agli indirizzi che abbiamo messo delle autorità competenti. C'è un tentativo, almeno da una parte di questa società, delle nostre istituzioni, come dire, di spingere culturalmente per una cultura bellica. Tu prima citavi la tensione tra Iran e Israele. Sembra quasi che ci sia proprio anche una regressione delle relazioni internazionali, per cui a un atto ostile, un atto di guerra, si debba reagire con la guerra, con le armi. E anche ieri tu, come dire, hai citato Mattarella. Spiace vedere che il Presidente della Repubblica abbia citato la NATO come uno strumento che ha garantito la pace in Europa. C'è proprio un problema culturale? Sì, hai pienamente ragione. È un problema culturale che parte proprio anche dall'informazione, direi, quella proprio più basica. Siamo a una regressione perché, come sappiamo, purtroppo la pace è un pensiero complesso, mentre il pensiero guerra è un pensiero binario: perdo o vinco, faccio la guerra o mi arrendo. E passa purtroppo questa facile, facilissima comunicazione, che è quella che spinge, poi vorrebbe spingere, l'opinione pubblica alla scelta di campo. Incredibilmente però sappiamo dai sondaggi veri reali che ancora la maggioranza degli italiani, per esempio, resiste, che è contraria all'invio delle armi ed è favorevole, sarebbe favorevole a politiche di pace, che è contro la guerra e per la pace. Ecco, noi puntiamo, diciamo, su questo senso comune, su questo buon senso, sull'idea base che per avere la pace bisogna preparare la pace. Invece oggi le cancellerie internazionali, anche europee, sembrano aver scelto quest'altra direzione, che è quella alla quale purtroppo si riferiva anche Mattarella, dicendo che un blocco militare, come è stata ed è la NATO, è quella che ha garantito la pace. Al contrario, è quella che ci sta portando insieme all'altro blocco, quello della Russia, che si sta saldando con la Cina, con l'Iran, eccetera, in questo mondo complesso che sembra essere impazzito e sembra capire solo appunto di rumori e eventi di guerra. Devo armarmi perché devo vincere, devo colpire, affossare il nemico. Questa logica appunto della ritorsione, l'Iran che dice poiché hai colpito la mia ambasciata, io ti mando i droni, e Israele che replica, poiché mi hai mandato droni, adesso io ti colpirò di nuovo, è la logica che ci sta portando al terzo conflitto mondiale, non più a pezzi, come diceva Papa Francesco, ma proprio tutto intero, perché queste tensioni nel Medio Oriente si saldano ovviamente con la crisi già tragica e già profondissima che da 2 anni stiamo vivendo alle porte d'Europa, anzi nel cuore dell'Europa, potrei dire, tra Ucraina e Russia. Quindi la situazione è serissima, quindi ognuno deve sentirsi chiamato a una scelta, che una scelta di vita in fondo, per cui questa proposta del movimento non violento mettiamo a disposizione di chiunque, di qualsiasi cittadino e cittadina, la possibilità di fare la propria parte, dichiararsi intanto obiettori di coscienza contro la guerra e la sua preparazione.